Laudetur Jesus Christus, un saluto a tutti da Alessio Paolo Morrone. Cari amici, mi è sembrato doveroso fare questo breve intervento per un semplice motivo che vi spiegherò immediatamente. Dunque, essendo io fruitore di vari social network, mi è capitato svariate volte di esternare le mie perplessità e riserve riguardanti il papato di Francesco I. Il limite dei suddetti social network risiede nel fatto che gran parte degli utenti non abbiano né il tempo né gli strumenti adatti per affrontare discussioni di un certo livello. Quindi, spesse volte, obbligati a sintetizzare un concetto, si rischia di essere fraintesi e anche le risposte spesso non riescono ad essere esaustive, sempre per i motivi sopracitati. Quindi approfitterò del formato audio per esplicare il mio pensiero. Una peculiarità dei social network è quella di creare schieramenti, ovvero ci si imbatte spessissimo in blocchi ben distinti di utenti che si contrappongono gli uni gli altri. Un po' come per esempio le tifoserie della Roma e della Lazio. Non esistono zone franche, o di qua o di là. Cos'è accaduto e sta accadendo tuttora, riguardo Papa Bergoglio? Navigando sul web ci si renderà conto di come Francesco I abbia avuto il potere di suscitare sentimenti contrastanti sia all'interno che al di fuori della Chiesa. Ci si può imbattere in manifestazioni di amore irrazionale per Bergoglio, sfocianti nella papolatria, e di contro in espressioni di odio ottuso e cieco al limite della blasfemia. Ma noi, come cattolici, dobbiamo cercare di non farci trascinare dalle passioni e cercare di praticare il discernimento quando si affrontano questioni riguardanti il vicario di Cristo. E quindi, stando nella verità, dobbiamo unicamente far parlare i fatti. E il primo fatto incontrovertibile è che Benedetto XVI non è morto. Per molti potrà sembrare un dettaglio insignificante, perché ormai le nostre orecchie sono assuefatte a sentire la parola Papa Emerito, ma il punto è che il cosiddetto Papa Emerito, per come lo concepiamo oggi, è una figura che nella bimillenaria storia della Chiesa non è stata mai contemplata. Non è mai esistita, almeno fino al 2013. Perché è vero che ci furono altri papi nella storia che per vari motivi abdicarono, ma ciò che è successo nel 2013 non ha precedenti. Non voglio entrare nel ginepraio dei complotti, però analizziamo i fatti. Benedetto XVI è il legittimo successore di Giovanni Paolo II. Dopo 8 anni, inspiegabilmente, dalle cosiddette dimissioni. E dico inspiegabilmente perché solo gravissime condizioni di salute fisica o mentale potevano giustificare tale gesto. Invece basta farsi un giro sul web per vedere che Papa Ratzinger magari non godrà di ottima salute, ma dai filmati e dalle foto si vede un novantenne con gli acciacchi perfettamente compatibili alla propria età. Quindi, scartata l'ipotesi dell'abdicazione suscitata da gravi problemi di salute, non resta che un'unica soluzione. Tra l'altro, questo mio pensiero è condiviso da tantissime altre persone, anche dentro la Chiesa. Praticamente, Benedetto XVI è stato costretto ad andare via, perché è sotto ricatto. Ci sono centinaia di teorie al riguardo, si va dallo scandalo dei preti pedofili al blocco dei bancomat del Vaticano. In ogni caso, ritengo che appunto Benedetto XVI si sia dovuto mettere da parte ob torto collo e che al soglio Petrino avrebbe dovuto accedere il cardinale Bergoglio ad ogni costo. Dico questo perché la regola dei gesuiti, a cui Papa Francesco appartiene, vieta sia ad approdare al cardinalato, sia di conseguenza al papato. Una dispensa papale fu promulgata ad hoc per il defunto cardinale Carlo Maria Martini. Leggetevi le opere e le esternazioni del porporato. arcivescovo di Milano, e poi ne riparleremo. Per quanto riguarda Jorge Mario Bergoglio, risulta palese che sarebbe dovuto diventare papa a prescindere, a costo di calpestare la regola ispirata da Sant'Ignazio da Loyola. Dunque, ho letto il bel libro di Antonio Socci, non è Francesco, che fornisce molti spunti interessanti e che portano a pensare seriamente che Francesco I sia stato intronizzato da forze che non hanno niente a che vedere con lo Spirito Santo. E un altro dettaglio non di poco conto, che avvalorerebbe le ipotesi sopracitate, risiede nel fatto che Papa Ratzinger non ha mai dismesso lo zucchetto bianco. Non si è chiuso in un convento o è tornato al cardinalato, come fecero altri papi dimissionari del passato. Penso che questo suo agire sia un chiaro messaggio rivolto sia al gregge di Cristo, sia ai lupi che lo vorrebbero disperdere. E il messaggio implicito è: state attenti che non possono esserci due papi contemporaneamente. Uno dei due non è legittimo. Prendetene atto e agite di conseguenza. E aggiungerei anche che è dai frutti che si giudica l'albero. Quindi come potremo giudicare questi 4 anni di pontificato di matrice argentina? Come detto prima, faremo parlare i fatti. Un fatto oggettivo e inattaccabile è che i più accaniti detrattori di Papa Ratzinger ieri sono diventati i pasdaran difensori di Bergoglio oggi. Non ricordo in tutta la mia vita un papa più insultato e vilipeso dal mondo come Benedetto XVI. E questo accade ogni qualvolta ci si metta di traverso contro i piani del principe del mondo. Gesù è morto in croce per questo stesso motivo. E disse anche: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Quindi, quando un pontefice viene amato e adorato più dai non cattolici che dai cattolici, è segno che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Se un papa suscita applausi euforici da parte di mondani e operatori di iniquità, qualche sospetto dovrebbe venirci. Come se nostro Signore Gesù Cristo fosse stato portato in trionfo da scribi e farisei. E dispiace che queste macroscopiche anomalie non siano state colte da tantissime persone, tra i consacrati in primis, perché non basta essere eletti per essere un papa legittimo. Se le votazioni non vengono ispirate dallo Spirito Santo, ma da conciliaboli e gruppi di potere, come si può affermare che, siccome il pontefice tal dei tali è stato eletto, ipso facto è il vicario di Cristo? È come il matrimonio. La Sacra Rota ha la facoltà di annullare un matrimonio dove una delle due parti o entrambe sono state costrette a sposarsi, o quando al momento del sì erano incapaci di intendere o di volere, o quando nel loro cuore pensavano che non avrebbero accettato i figli che Dio gli avrebbe mandato, eccetera, eccetera. Quello che voglio dire è che se un papa, al momento dell'elezione, in cuor suo, ha intenzione di servire il mondo più di Cristo, beh, fate voi. Come detto prima, l'albero si giudicherà dai frutti. Un altro frutto di questo papato è il capitolo 8 dell'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, dove par di capire che un vescovo, secondo sue personali valutazioni, abbia la facoltà di comunicare una coppia di concubini. Verrebbe da pensare che i vescovi possano essere più misericordiosi di Gesù Cristo. In ogni caso, questo punto ha creato molta confusione nella Chiesa, generando infatti i famosi dubbia. Dubbia ai quali Papa Francesco ha accuratamente evitato di rispondere, lasciando il gregge nel caos. Tra l'altro, fior fiore di teologi si stanno alambicando il cervello per poter dare una corretta interpretazione al capitolo 8 di Amoris Laetitia. E ciò fa sorridere, amaramente, se pensiamo a tanto sforzo per interpretare un testo sottoscritto da un pontefice, quando Gesù stesso disse: «Il vostro parlare sia sì sì, no no, il di più viene dal maligno». E qui concludiamo. Sperando di aver fatto luce sui motivi che mi portano ad essere fortemente perplesso riguardo questo pontificato. E per finire vorrei citare San Paolo, che nella lettera ai Galati affermò che anche se un angelo disceso dal cielo predicasse un Vangelo diverso da quello proclamato dagli apostoli, sia anatema. Quindi, se non dobbiamo seguire un angelo eretico, figuriamoci un vescovo o un papa. Da Cagliari vi saluta Alessio Paolo Morrone. A presto.